era tutta marcia dentro, insomma era un casino. Vabbè, avanti Giulio, a te il microfono, cambio. Ok, grazie. Sai che bisogna muovere l'economia, anche le antenne si devono rovinare, così almeno spendiamo i soldi e muoviamo l'economia, che l'Italia ha bisogno di quel movimento importantissimo, cioè l'economia. Avanti Gianfra. Non è tanto il problema di far muovere l'economia, che già la stiamo facendo muovere anche troppo, mi sa, che stiamo spendendo parecchio. Il problema è che ci devi salire sopra ad altezze strane, no? Di 10 metri, in bilico, per attaccarne una stupida antenna che non dura neanche 2 anni. Tutto lì è il problema. Non è un problema di andare a comprare 150-200 euro l'antenna, è il problema che si può anche fare male, non siamo più dei ragazzini che saltellano a destra e a sinistra, di lì bisogna stare attenti. Come diceva quello, tanto fa la gatta al ladro che ci rimetti lo zampino o cose del genere, e quindi è una scocciatura, perché in basso è tutto leggero, in alto con un braccio invece è tutto un casotto. Poi mi hanno sceso pure il palo, l'ho mollato, non mi sono accorto che ho esagerato perché non scendeva, ne scende questo affare di colpo, ha fatto un socco e non ti dico. Quindi è un casotto, adesso ci metto una 300, buono tal secchio, e se la attaccano al naso quella, anzi prendo anche la più economica, così almeno si imparano a fare queste porcherie. Sì, intanto guarda l'uso che ne facciamo, no, non c'è bisogno di antenne grosse, perlomeno io ho mollato tutto, quindi ho una X50 messa lì, giusto per ascoltare, visto che c'è l'R0 nuovamente attivo, ho visto che punti ci sono, giusto per ascoltare, non per parlare, se capita salutare qualcuno, per carità, perché no, ma non la metto più antenne grandi, tanto uso sempre roba di manutenzione, casini e balle varie. Vai Giulio. Ok. Quel caso lì anche a scala aerea, già fa, scala aerea se devi salire a 10 metri, così è un ulteriore rinforzo per muovere l'economia, anche quello fa parte dell'economia, oppure bisogna fare come Icaro, cercare di attrezzarsi di ali, può essere che un giorno l'uomo riesca a volare e rimane una certa attesa per farci parlare delle antenne. Sarebbe bello, Gianfra. No, per quello ci pensano già le cornacchie, che volano anche troppo, che hanno fatto loro il casino. Comunque, la scala c'è la scala da cantiere, che è fissata proprio, attaccata a morsetti fissa, e sali lì. Certo, mi dirai, ci sono le scarpe di sicurezza, eccetera, non è che puoi salire così, con scarpe da tennis, perché ti tagliando il piede, capito? Ed è pericoloso. Sali di lì, ti fai un rampo di scale, ta-ta-ta-ta-ta, sei su e poi sei bello a vedere il panorama. Chissà se si vede, vabbè, forse c'è quella collina, tu Claudio, c'è quella piccola collina, ma se metti un palo con un faro, probabilmente io ti vedo, perché tutta quella zona è abbastanza libera. Ascolta, siccome qua sotto vedo che c'è, sulla V8 c'è un tasto FMSSD, dimmi se succede qualcosa, o se non succede un tubo, attenta, guarda, tac, adesso come un tasto, nella posizione che c'è questo affare FM, mi direi se è cambiato qualcosa, adesso lo rimetto di colpo sulla funzione SSB, vediamo un po', ecco, come un tasto SSB, fa qualcosa oppure non succede niente? No, da parte mia non è successo niente, siamo la visione sempre la stessa, riprendi Giulio. Confermo anch'io, non è successo niente di niente, ma nulla, nemmeno quel segnale, sempre quello è rimasto, 9 più 5 e la radio è sempre uguale, non, nessunissima differenza Gianfra. Ma quindi forse si nota solo quando si passa in, in coso. Vabbè, tutto lì. Sto guardando, adesso ma c'hanno una scocciatura. C'è anche una 200 disponibile, che l'avrò tolta. Quasi quasi ci metto quella e mi risparmio anche l'antenna, perché tanto devo comprare i tubi, perché come è caduto quello d'almine, si è pure piegato. Un tubo d'almine che si piega, roba la matta. Addirittura un tubo d'almine. Tanto si è fatto tutti i 10 metri di corsa e poi ha sbattuto sul calcestruzzo ed è rimbalzato pure. Meno male era attaccato comunque, non senti. Ma sono quelle cose, sai, che basta un attimo e scende di colpo, no? E quando purtroppo magari c'è anche un pochettino di corrosione sui morsetti, poi svita di colpo, quando cede fa pam e ne scende. Comunque non è successo niente, l'antenna l'ho tirata giù, ho visto cosa c'era e ho detto basta, adesso mi sono rotto le scatole di riparare il PL, cioè il PLN, N del cavolo, buono calcicchio. Così, anzi ero quasi deciso di comprare un tipo Game Master, no? senza radiali, io volevo andare senza radiali così la cornacchia si attacca al tram, però ci hanno guadagni bassi, capito? Ci hanno guadagni bassi, sì, KK, avanti Giulio, riprendi. Ok, ma io sinceramente parlando devo dire che questi PLN per me non lo so quanto valgono, per conto mio è meglio il PL normale, così almeno c'è la ghiera, avviti e rimane, perché rimane, mentre invece quello ha solo questo incasso, un mezzo giro, ma prima o poi a forza di sollecitare l'antenna, il vento, sicuramente si può anche staccare, come ci è successo già fra. E quelle sono con macchia soprattutto, non è il vento. Claudio, cambio apparato, voglio far girare anche l'altro, che il sentire un po' il Motorola. Hai trovato poi quel microfono già fra? Hai controllato se avevi qualcosa di quella categoria che ti ho detto? No, niente, l'unica cosa di Aizu che ho è il coso di VHF con i tasti di TMF, ma per HF non credo proprio che vada bene. Va bene. Non riesco a trovare il microfono originale. Ne te la trovo, però io ho tutto dentro le scatole, ben ordinato, ho trovato tutto tranne questo, non vorrei che l'abbia data a qualcuno. Vabbè, avanti Giulio. Ok qua. E che microfono ti manca? Di qualche radio professionale? Sì, stavo cercando il microfono dello Yaesu originale, non riesco a trovarlo. Pure io ho trovato tutto, perché ho messo tutto nelle scatole, microfoni con microfoni, connettori con connettori, radio con radio, ho trovato tutto. E quello mi manca. Ma sicuramente l'ho dato a qualcuno, altrimenti sarebbe stato qua. L'ho prestato a qualcuno, l'ho dato a qualcuno perché magari io non lo usavo, avendo un microfono di tavola. Così, vabbè, pazienza, vuol dire che me lo riprenderò un originale Yaesu, dai. Ok. Compraci uno di quelli, come si chiamano? Tutti quei cloni che sono uguali, ma quelli fanno tutti in Cina, anche Yaesu. Quindi siamo sempre lì. Ho cambiato apparato, il Motorola non si può usare perché è collegato direttamente al dipolo, quindi magari mi senti troppo basso. La radio questa c'ha qualche problema che ti risulti, Claudio, perché non so se l'alimentazione è troppo bassa o cosa è. No, diciamo che va bene lo stesso, l'altra mi piaceva di più, era più performante, più penetrante, aveva un po' più di acuti, però questa non è male. Cosa ne dici, Giulio? Ma no, del mare no, però è più bassa di radio e che va bene lo stesso così com'è. È anche più bassa di segnale, a meno che non ci sia differenza di watt. Allora, insomma, la differenza già c'è, già l'ho notata. Avanti, già fa. No, perché non ricordo, sono 2, 2, 3, ma ci siamo, no? Gli a vuoto erano con due batterie da 1,5, invece sono 3 volt, lui sta dando 3 volt, quindi diciamo funziona bene. Oh, vabbè, forse è tutto lì, non ne so. Va bene, niente, infatti volevo dire, giornata calda anche oggi, però di sera meno male c'era un po' di freschetto. Olea, me devo allontanare, a dopo se ci siete, se no vedete vi salutate che è arrivata gente di nuovo. Ok, ciao Clara, allora, alla prossima, avanti, chi è la fischio? Oh, ciao, ma ci vediamo, sei tu, sì? Non ho capito bene, ma sei tu? No, non ho capito, scusa, ma non ho capito. Che non è molto chiara, comunque vediamo un po' Gianfranco cosa mi dice Gianfranco. Avanti Gianfranco, hai copiato meglio di me l'amico? Sì, io lo sento forse all'inizio e poi se ne scende un po'. Ti volevo chiedere, vediamo chi è l'amico, se riesco a capirlo, non so dove si trova. Forse Porto Torres. Porto Torres, sei tu? Sei Cristian, è una radio pessima, non si capisce, non è chiara la radio, non so, aggiustala. No, non è questione di radio. Attenzione Cristian, mi ascolti? Cristian, mi ascolti? Sì, mi dice la zona? C'è uno che ti copre sotto, uno straniero. Allora, ripeto, mi ridici la zona, perché il tuo segnale sale e scende, e purtroppo c'è anche un po' di preparazione. Hai copiato Cristian? Stai uscendo male del radio, o perlomeno c'è qualcos'altro acceso lì, e si sentono più modulazioni, e dunque la tua viene coperta la radio. Avanti Cristian, vediamo un po' se è riuscito a sistemare un pochino. Vai. Avanti Fischio. Sei a chi è? A tutti, ho parlato e non sai chi c'è, Giulio e io, ciao. Ah, io ho visto il bianco, non me ne sono accorto, chiedete per l'abbordante, scusate. Ehi, ciao a tutti. Tu vedi un ruscio, guarda che a noi la musica non ci piace. E beh tu, al mare sei andato. Cappa, no, non ce l'ho io no, la musica. La musica del fischio mi intendevo. E tu, attento a me, Zacchi. Io pensavo non c'era nessuno, allora ho bruciato. Ho ben acceso, capito? Un po' da dire stasera. Chi tu da quella della portata da chi sta da dove? Da quale città dell'Italia? È arrivato più forte di te. Riprendi a tu. Ah, vero, è una buffonente. Allora, fatti immaginare, come si permette questo, di salvamodulare a studio? E vabbè, è arrivato un bel colpo di preparazione. Avanti, Gianfranco. Sì, ciao Anto, buonasera. Bene, ben ascoltato. C'era anche Cristian, che non so se si è allontanato o se sia ancora in zona. Cristian, se ci ricevi, ci ripeti la zona? Cristian, ci sei? Cristian è il fratello di coso. Non so che sia questo Cristian. Cristian poteva essere il fratello di Antonio Reserva. Già lo conosco bene. Appunto, io di Cristian conosco lui, però non si capiva niente di radio, era tutto messo male, per cui avevo la radio pessima. No, io lo sentivo bene, solo che lo copriva lo spagnolo, tutto lì. Vediamo un po' un'ultima chiamata, se no vuol dire attento. Cristian, ci ricevi? Sì, d'accordo, tu lo ricevevi bene, però la radio era pessima. Anch'io il segnale lo ricevevo abbastanza molto, però la radio era praticamente incomprensibile, per cui va bene così. Da fra 9:10 hai fatto quest'ultimo passaggio. Sì, ho aumentato la potenza sul piccolo anche, cosa che faccio molto, molto, molto raramente, perché c'è, sotto stavamo parlando, ma è ripreso troppo veloce. Comunque va bene, dai, riprendiamo. Gappa. Vabbè. Sicuramente, ma io adesso non essendo licenzio di spagnolo, cioè, o gare, sentendo qualche un attacco lineare. Cosa mi fai del lineare se non li ascolti? Non hai capito che il lineare, pare la, se non c'è ricezione, non lineare, cosa ne fai se non senti le persone? Perché non li dovrei ascoltare? Beh, guarda, anche adesso sotto stanno parlando, ma se non li ascolti, cosa fa? Attacchi il lineare per non ascoltarli. Cappa, c'è qualcosa già sento sotto, vuol dire che a me non mi arrivano forte come dovrebbero arrivare. L'altro giorno, la rimane Melanie, mi stavano scocciando, li sentivo bene, forte. Addirittura perché li posso fuggire. O sono che sono fuggiti. Tu hai un'altra posizione, già sa, io non so dove sei, però sicuramente hai una posizione invidiabile per quanto riguarda la propagazione. Ho già fatto magari che hai anche antenne molto in alto, antenna molto in alto, per cui va bene così. Vabbè, dai, dipende già fra. Beh, anche adesso infatti stiamo parlando, perché sono mischiati, sono qualcuno in FM, qualcuno in AM, e quindi sono mischiati, ma devono essere spagnoli con altri lì che si sentono. Quindi se uno è ad Alghero, ad esempio, con le zone, antennino, è difficile che arrivi tutto lì, perché loro sono più forti. Ma la zona non è alta, non ti credere, diciamo verso Sassari è completa, verso coso lì, sotto Torres è coperta da coso lì, da Monteoro, quindi pregi e difetti, ecco. Ma c'è anche l'apparato che è sensibilissimo, di ultima generazione, anche i microbi si sentono qua. Magari non sentono a me, però sicuramente spesso e volentieri li sento. Sì, sia su questo sia anche sull'altro, perché ce ne sono tanti di radio. Mi sono dimenticato quello che dovevo dire. Comunque sì, fatto oggi, tornando al discorso di prima, Giulio, fatto oggi c'era molta gente, e c'era anche, fortunatamente c'erano i condizionatori a manetta dentro, ma quando sono uscito un caldo, io non ti dico, poi era quasi luna, ti puoi immaginare, posteggio non ce n'era veramente, è una cosa micidiale, però dai, è fatta anche questa. Lo so, Gianfra, ma purtroppo è così, io l'appuntamento per me era lunedì 20, però io sono andato lì, sono arrivato lì l'una meno 10, una cosa del genere, e con la macchina siamo scesi giù, per cui, anche perché mi ha accompagnato mia figlia, dai, e dunque lei ci ha accompagnato sin giù, fino a dove si doveva entrare, e poi per un attimo è uscita fuori e ha parcheggiato nel paraggio stesso, e dopo per ritornare a casa di nuovo è andata, ha preso la macchina, è scesa di nuovo giù, ci ha caricato a me e a mia moglie e ci ha riportato a casa. Insomma, in poche parole, mi ha fatto da autista personale mia figlia, no? Per cui non c'è problema, lo so, all'interno si stava bene, ma fuori scatta, e poi l'ora di punta, ne sono uscito che erano le 3, che ti puoi immaginare, a quell'ora ce n'è di bel caldo, altro che se ce n'era, tra l'altro senza nemmeno pranzare ancora, perché appunto ho pranzato alle 3, oltre alle 3 quando sono arrivato a casa, insomma, ecco. Vabbè, comunque è fatto, dai. E tu, Antonio, fatto da bere il vaccino. Io il 21 di questo mese lo faccio. Ma cosa fai, la prima dose oppure la seconda? La prima dose faccio. chissà ne pagherà bene. Sì, che cosa devo dire, ma bene, per forza, bisogna farlo a tu. Non lasciate convincere da chi magari è contrario, perché chi è contrario deve ancora studiare un attimino, perché non è possibile rinunciare. Si deve fare e basta, per rispetto tuo e soprattutto delle altre persone che magari avvicinerai in futuro. No, io l'ho completato, ho fatto la seconda dose ieri, per cui va bene così. Vabbè, io sono molto giovanete e adesso tocca a te il 21. Vabbè, è così almeno, anzi no, la prima mi ha detto che devi fare. Vabbè, dopo 30 giorni ti fanno fare la seconda dose. Avanti Gianfra. Ma un attimino Gianfra, io non è che non lo voglio fare, per carità. Io il vaccino lo voglio fare, però mi sta nervosendo una cosa, mi sta nervosendo che tornano questa storia dei contagi, eccetera, eccetera, e come va a farmi il vaccino magari mi sarre, è quello che non mi scende giù, capito? Poi il vaccino lo posso fare anche domani, è perché mi hanno prenotato quel giorno lì. Anche domani io il vaccino lo posso fare, non è un problema per quello, però non è giusto se io mi faccio il vaccino, da poi magari fra l'altro mese quindi mi si è ridotta, cosa l'ho fatto a fare? Ma il discorso è questo, Arturo, non è questione l'hai fatto perché per te è una difesa personale e soprattutto rispetto anche nei confronti delle altre persone, perché è giusto che sia così. Supponiamo, questo non significa che quando uno è vaccinato non possa prendere contagio, e sia ben chiaro, il contagio lo puoi prendere lo stesso, però il discorso è prendere il contagio senza essere vaccinato ha un effetto, prendere il contagio con una persona già vaccinata l'effetto è diverso, è molto più leggero, perlomeno così dicono gli scienziati, per cui è quello importante. Se dovessimo ragionare tutti quanti in quel modo, allora il Covid non finirebbe mai. E invece bisogna piano piano combatterlo, e l'unico modo per combatterlo oggigiorno è il vaccino, oltre al fatto che bisogna sempre mantenere le regole, le distanze, la mascherina quando si fa in ambiente chiuso, eccetera, eccetera. Io personalmente la mascherina la porto ancora anche per strada, e di quello che dicono gli altri non me ne frega mai niente, perché oggi bisogna stare molto attenti a tu, non si scherzano con questa storia, non si scherza. Avanti Gianfra. Guarda, io stavo guardando un telefilm che parlava del 1500, poi ovviamente mi ha incuriosito una cosa del genere, ho un pochettino approfondito sui testi medici storici dell'epoca e così via. E nel 1500, nella Londra del 1500, ai tempi dei Tudor, c'era questa strana cosa, no? Che chiamavano la febbre del sudore, ed era una malattia molto contagiosa, e ovviamente all'epoca non c'erano tutte le analisi di oggi e gli strumenti di oggi, però questa strana febbre che prima ti dava dei brividi e poi ti dava questo sudore spaventoso, nel giro di 24 ore o guarivi o morivi, la maggior parte ovviamente sono morti. E tu pensa, ha fatto un po' il brinco e se n'è andata da Londra ad Anversa, che è una città tedesca, e le ha dimezzato la popolazione. A Londra lo stesso ha fatto migliaia di morti e non sapevano come firme. L'unica cosa che era efficace, che ha avuto efficacia, è stato il distanziamento praticamente. Chi stava lontano da questi centri abitati o dalle persone se l'è cavata, ma gli altri nel giro di 24 ore, cosa da fare impallidire il Covid, e non era peste, figurati, cioè ti viene adesso, il giorno dopo sei morto, una cosa allucinante. Quindi ben vengano i vaccini. Ma cavolo, boh. Ci sono troppe cose strane, ci sono, scusami, ci sono troppe cose strane che non tornano. Vabbè, allora, quando mi do canta me lo posso. Cosa ti dica? Ah tu, è necessario farlo, perché è l'unica difesa al momento per evitare questa malattia è il vaccino, come è successo negli anni passati per altre malattie, c'è stato bisogno del vaccino, eccetera, eccetera. E meno male che oggi si riesce, meno male, anche a breve tempo, perché tutto sommato questo vaccino è stato fatto in brevissimo tempo, hanno trovato la cura, perlomeno per alleggerire la situazione, perché se no guai. Ti dico solo una cosa, io avevo 12, 18 anni, avevo anche, tanto per dirtene una, ascoltami questa, Mio nonno è morto quando io avevo 18 anni, sai perché è morto? Di TBC, sai cosa voleva dire? Voleva dire una puntura di penicillina. Se ci fosse stato allora, in quel periodo, la penicillina, una puntura bastava, l'uomo non sarebbe morto, per dirtene una, no. Perché vedi bene, il vaccino è importantissimo, è una cosa importantissima, per cui non fate convincere da chi è contrario, o da chi dice di dire stupidaggini, perché chi è il contrario per me sta dicendo solo e esclusivamente delle stupidaggini. Pensa che nel mondo ci sono stati già oltre 4 milioni di morti. Sai cosa significa 4 milioni di morti? Vuol dire 3 volte gli abitanti della Sardegna intera. Si può immaginare. Va bene, poi ognuno fa e pensa quello che crede, non ci sono problemi. Avanti Gianfra. Purtroppo così. Purtroppo così, ma queste cose, queste incredulità fatte in casa o perché qualcuno non sa interpretare la documentazione scientifica stanno facendo altri danni. Tant'è vero che sta passando sotto gamba la questione del clima, non so se avete saputo cosa è successo in Canada, cose fuori di testa veramente. Praticamente hanno avuto questi 50 gradi hanno almeno 200 morti sicuri e 800 altre persone disperse, quindi che si potrebbero considerare morti. E nel paese dove si è manifestato questo fenomeno di 50 gradi all'ombra, che è una cosa assurda, perché in Canada, cavolo, c'è freddo da cagarsi, c'è sempre la neve, c'è sempre temperature bassissime, arrivano anche a meno 20 lì, è una cosa pazzesca, e ci hanno avuto questo colpo di 50 gradi. E cosa è successo? Dopo che è arrivato il calore, ha preso fuoco anche la città, perché si è generato un tale cumulo di vapore acqua, di acqua che ha evaporato, e si sono creati questi temporali che hanno creato una miriade di fulmini che stanno incendiando parte del Canada, cioè una cosa da paura, cioè è un film del terrore praticamente, quindi per chi non crede veramente sono cose veramente gravi che stanno succedendo, quindi a volte è proprio vero, non si sa più come dirla le cose. Bianco per me ci stiamo dopo. Ok, allora d'accordo, dopo dai. Sì, ma in effetti è un fenomeno extra rispetto a tutti gli altri anni e tutti i periodi di allora. Tu pensa anche che la maggior parte delle case in Canada sono fatte in legno, che si può immaginare. Diciamo che ha trovato terreno molto ma molto fertile per quanto riguarda gli incendi eccetera, con quel calore lì già lo credo, perché fanno le case di solito in legno in Canada, proprio per l'effetto del freddo, perché sennò il cemento si spaccherebbe, e allora la maggior parte delle case sono costruite su piattaforme e muratura, questo sì, però praticamente le quattro pareti perimetrali sono sempre la maggior parte in legno, per cui ha trovato fatto terreno fertile il caldo che quella zona lì già fa. Beh, tieni presente che che utilizzano il legno perché non è una cosa tradizionale, come per noi muri a secco, però anche perché è stato sempre un ottimo coibente contro le basse temperature e anche le alte in molti casi. E quindi cosa succede? Che in questa povera cittadina, che è abbastanza sfortunata, oltre a avere decimato gli abitanti, sono arrivate anche queste forme meteorologiche insolite di tempeste che hanno scatenato fulmini in una maniera che noi non ci possiamo neanche immaginare, che sono ovviamente cadute a terra e di lì hanno incendiato tutto quello che hanno trovato, hanno iniziato degli alberi e poi ovviamente ha piscato anche le case. E quindi è una cosa conseguenziale a una situazione meteorologica eccezionale. Tu figurati se la stessa cosa fosse capitata, e nessuno può dire che non capiti, in Russia ci sono alcune città verso la Siberia, verso la zona più fredda della Russia, che sono costruite le fondamenta sul permafrost, una cosa del genere, che sarebbe terra e ghiaccio, siccome il ghiaccio è perenne, quindi viene bene a costruire, fare il buco, dopo di poco si ghiaccia tutto quanto, perché è stato sempre così da secoli e secoli e secoli. Se capita una cosa del genere di lì, e sta capitando perché anche lì hanno notato che le temperature stanno aumentando, ci sono città di 100.000 abitanti, puoi solo immaginare cosa succede. Purtroppo è così. L'uomo col suo progresso ha fatto tanto, distrutto anche tanto e sta continuando a distruggere. Vediamo un po' dove finiremo, e chi lo sa, magari la nostra generazione probabilmente cosa avverrà in futuro non riuscirà a conoscerlo, però non è detto, bisogna vedere il tempo che ci impiega per questa trasformazione, perché sicuramente bisogna considerare che una trasformazione totale è assolutamente avvertibile, perché così succede per forza. Saremo a vedere che cosa tu vuoi fare, Gianfra. Non siamo più all'età della pietra, no? Ormai l'evoluzione umana ha costruito ma anche distrutto, ha distrutto e continuerà a distruggere, anche se continuerà anche a progredire, ma tutto questo progresso alla fin fine non lo so se ne vale la pena, forse sì e forse no, e chi lo sa. La buona, riprendi. Quindi poi ci si mettono anche le navi, hai saputo sì, cosa è successo? Adesso non mi ricordo se era il Senegal o dove, e comunque, no, non era il Senegal, non mi viene, quella zona turistica lì che vivono di pesca, che tra l'altro ci vanno anche molti italiani a fare le vacanze. È affondata quella petroliera lì e ha riversato il mare di acido nitrico, sta morendo tutto, già 200 e passa tartarughe, che era il paradiso delle tartarughe, tutte distrutte e morte. L'economia non esiste più, perché non esiste più, perché cosa fai, dove vai, è tutto tossico, ha fatto un danno che neanche 50 anni basteranno per metterci rimedio, perché è tutto distrutto, capito? E noi ci lamentiamo per stare un mese, due mesi a casa o con i negozi chiusi, forse non siamo capaci di avere la stessa durezza, la stessa cosa che c'erano i nostri nonni, che c'erano senza mangiare sotto i bombardamenti della guerra, eccetera. E qua in Sardegna poi sono stati minimi, a parte Cagliari e Alghero, che è stato un po' pesante, ma chi era a Genova, chi era nelle altre città italiane, ha patito la fame, ma con la brutta brutta. Noi siamo andati viziati purtroppo, e questa è la cosa che risalta, ecco, quando ci sono queste cose così gravi. Ma in effetti è così, però bisogna sempre pensare certamente al domani, sarebbe più giusto anziché cercare di progredire sempre in questa maniera. Io direi invece che sia arrivato il momento di cercare di recuperare la vita, perché la vita sì, si è evoluta tanto. Gli uomini prima morivano a 40 anni, oggi muoiono a 100 anni, per dire, perché deve considerare che l'uomo sta distruggendo la terra e anche i mari, perché anche i mari sono inquinatissimi, e dunque siamo proprio messi male, ma messi male veramente. Perché è solo questione di tempo, magari sarà anche un tempo lunghissimo, ma prima o poi avverrà, io penso, la fine del mondo, perché continuando di questo passo si vedrà in giro solo distruzione, e questo io penso che col passare dei secoli sarà inevitabile, perché se si continua ad andare avanti in questo modo, tu mi dirai, ma forse riusciamo a trovare vita sulla Luna, ora, ma io poco ci credo che sulla Luna ci possa essere vita, assolutamente no, comunque, non è detto, questo non lo possiamo sapere, ancora l'uomo non ci è arrivato a capire e a stabilire effettivamente se sulla Luna o su altri pianeti ci possa essere vita, e chi lo sa. Sarà molto ma molto difficile. Avanti, Gianfra. No, vabbè, su quello ci abbiamo già le risposte. Sul nostro sistema solare, perlomeno dove abbiamo sondato, anche su Marte, forse la vita c'è stata, qualche forma di vita, ma attualmente non c'è niente. Sulla Luna assolutamente niente. È tutto accertato dalle sonde automatiche, da tanti studi. Quindi non c'è dubbio. Ah, il problema non è quello, è che non abbiamo neanche le risorse. Non so se l'hai sentito, siamo già un anno e noi stiamo consumando senza avere il ritorno, cioè nel senso che abbiamo il serbatoio che è a metà, stiamo arrivando a un punto che alla fine non ci sarà più come riempirlo, perché proprio non ci sarà più la risorsa. Già oggi siamo praticamente nella fase di consumo che va oltre le possibilità del pianeta di rifornirci, ecco. Quindi guarda a che punto siamo, e in più nei prossimi anni sarà prevista una popolazione tale che sarà destinata alla fame, soprattutto in paesi come il Pakistan, l'India, e quelli lì sono miliardi di persone, quindi è impossibile dare da mangiare in parole povere, mi detta papale papale. Sì, indubbiamente sì, infatti quello che dico io, si va avanti in questo modo con tutto questo consumismo, sarebbe bene incominciare a riflettere un attimino per un domani, per i nostri figli, per i nostri nipoti e per quelli che verranno, perché continuando così sarà una vita veramente da fame, come hai detto tu stesso. Già si sta verificando in certi paesi, anche se ancora non sono mai stati progrediti come si dovrebbe, ancora oggi nel 2021 ci sono dei posti assurdi che non hanno nemmeno l'acqua. Questo è per dire il caso dell'Africa, tanto per citare un continente così. di questi disagi che hanno lì, loro cosa succede? Che con il loro trasferimento, con la loro facilità di trasferimento che hanno negli altri paesi, ad esempio in Europa, faranno sì che poi alla fin fine non ci sarà spazio più per nessuno. E allora tutti ne soffriremo indistintamente, sia economicamente anche a livello di spazio. E in certi posti non vedremo altro che deserto, come in pratica anche oggi lì. Pronto? Sì, arrivo. Anche oggi lì è abbastanza diffuso nel deserto, perché non sono mai stati capaci di fare niente per loro stessi. Hanno pensato solamente a vivere peggio degli animali, senza un minimo di progresso, eccetera. Va bene, dai, comunque. Dipende, Gianfra, dai, ascolto Pinalino e dopo dovrò chiudere, che mi hanno chiamato per la cena. Sì, infatti ho sentito che è pronto, e anch'io mi associo, vado a mangiare qualcosa. Ti saluto Giulio, buona serata, alle prossime e buona cena. Ecco, io sono rientrato. Hola. Qui, ciao Giappa, ci sentiamo. Stiamo chiudendo per la cena tu. Ciao, ci sentiamo. Alle prossime, dai. Chiudo. Hola. Ciao, ciao Anto, chiudo. Ciao, ci sentiamo. Ciao Anto, alle prossime, buona cena anche a te, se non l'hai già fatto. Ciao. Ah, tutto a posto, ciao. Ciao Giulio, anche a te Gianfranco, ciao, tutti e due, ciao. Ciao, Bartra. Chi è? Avanti? Chi è? Ehi, avanti, chi è? Antonio sono, avanti, c'è lei con Bealto, c'hai. Capa che ti sento, buonasera. Chi sei? Oi, buonasera Cristi, capa. Ma sta andando piano con la macchina. Capa. Dove ti trovi? Ah, a casa tua sei. Guarda, ti arrivo lì. 2-3 prova. 4-9. Addirittura. Capa. Non sei molto forte qua tu, allora. Sì. Ti vieni verso chissà zona, vedi? A me che ti arrivo forte. Capa. Già lo sai che non sono più latte dolce, sì. Sono da un'altra parte. Capa. Non lo sapevi? Capa. Ok, dai. Ciao Cris, ci sentiamo. Grazie. Chi è avanti? Avanti, grazie, chiama la Sardegna. Cazzo, non rimaniamo in occhi. Ehi, avanti. Attenzione, canale 10. Se siete ancora in ascolto, rispondete a questo CP che vi sta chiamando dal caffè. Sì. Magari. Avanti, chi è? Chi è che sta chiamando qua? Venga avanti. Tra di varia. Antonio. Cambio. Avanti, chiama Antonio. Chi è che sta chiamando Antonio? Avanti. Hola. Antonio Pedivella. Ciao Cla, buonasera. Me l'avevo mezzo immaginato, vedi tu. Cosa te l'hai immaginato? Dal segnale. Dal segnale dallo sacco. Già va bene, segnale, già va bene. Ottimo per la truppa. Capa. Ma sei arrivati anche, mi sbaglio animali. sarebbe da gadrapo, dammi. Uff. Ci lavora domani? Ehi, vabbè. Vabbè. È perché stai fischiando. Stai fermo. Cappa. Ora una roba così frucente, che cazzo ci vai? No, forse avevo l'amplificazione troppo alta, sto usando il Zarner sul Galaxy. Cappa, può buttare entro in questa notte, eh? Oh, via, sul cennaio aperto. Era ora, avere un caso a muri. E noi siamo 30 gradi, 30-35. Cappa, ma no, secondo me c'è un po' di meno adesso. No, vabbè, adesso già va bene. No, domani ho detto c'è 30-35. Perché non mi ascolti bene di radio, sì. Una canuata, sì. Ia, già va bene, già va bene. No, anche Giulio Marco già esce bene sto microfono. È che non lo stavo usando molto. E anche il segnale è un bel forte. Giulio Marco 9-10 pieno, anche di più. Che qua c'è così, eh? 9-10. Di più. Sì, vabbè. Già va bene, già va bene. Va bene a tutte le parti da qua, eh. Non mi posso lamentare, pensavo peggio. Ieri contro l'antenna è ancora bassa, non ho fatto niente. Quando c'è più fresco a settembre vediamo di fare un qualcosa di diverso. Però già arrivo bene. Alghero, mi arriva Santiago 9, anch'io arrivo molto bene, a tutte le parti. KK, non c'è entrato nessuno. Poco fa c'era Giulio e come si chiama? Gianfranco, poi ho sentito Cristian un po' e basta. E Cristian chi, fratello di Antonio Riserva? Eia. No, ho sentito io. La radio era accesa, ma ho abbassato il volume perché c'era gente. Adesso devo ancora andare a cenare, quindi. Adesso ti mollo, vado a cenare. E poi guardiamo un po' di TV. Semmai già ci sentiamo dopo attorno. Ok. Ciao, tu già cenato, eh? Di allora. Io no, perché finiamo sempre tardi di pranzare, capito? Abbiamo pranzato, abbiamo finito alle 3, passati 3 mesi. E quindi ceniamo verso le 9, 9 e mezza, ci vediamo. Va bene, ci aggiorniamo tu, dai. Ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo. Allora, attenzione 10. Allora, attenzione 10.